Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio. C'era stato chiaro fin dagli ultimi minuti della puntata dedicata a questo tema la scorsa settimana che il discorso sull'IMU, che sta accendendo tutta Italia e non poteva lasciare indifferente la nostra trasmissione, non si poteva considerare esaurito lì. Tante le domande che ci avete posto per telefono, via messaggio, via mail, tantissimi i quesiti. 1500, qualcosa come 1500, i quesiti che sono arrivati ieri agli esperti del Sole 24 Ore in corrispondenza con l'uscita della corposissima guida da 8 pagine con tante risposte e informazioni sulle corrette modalità di pagamento dell'imposta municipale unica. Per questo anche noi oggi torniamo a parlare dell'argomento, dedicando un'altra puntata di Salva Danaio a questo tema, oltre a riprendere e chiarire ancora una volta le regole base, le modalità di calcolo, le date da ricordare, cercheremo di focalizzarci anche sui casi particolari più significativi di quelle situazioni limite che creano ancora dei dubbi, in particolare le tante domande relative alla classificazione del nucleo familiare in rapporto alla definizione di abitazione principale o secondaria. E poi cerchiamo anche di fare il punto su qualche novità, alcune le abbiamo lette nei giornali nei giorni scorsi. È confermato per esempio il pagamento dell'IMU per le case cosiddette fantasma, ormai ex fantasma, gli edifici che insomma non erano accatastati fino a poco tempo fa e che sono stati recentemente regolarizzati. E poi, questa più che altro è una speranza, ci sarebbe anche un'apertura da parte del governo a proposito delle sanzioni per chi sbaglia i calcoli, che potrebbero non scattare subito se i calcoli si sbagliano, perché come sapete è anche difficile quantificare quanto si deve versare se il comune di riferimento non ha ancora stabilito in via definitiva l'aliquota da pagare. E insomma, tante le questioni complesse. Come vanno considerati anche i figli, tra l'altro i 26 anni, che è quella soglia appunto che permette la detrazione per i nuclei familiari se i figli abitano naturalmente con questo nucleo, si calcola il giorno del compimento dell'età, più di 26 anni, meno di 26 anni, insomma tante questioni da ribadire questa mattina. Cristiano Dell'Oste, che vedo che ancora vive e vegeta nonostante l'impegno enorme messo in campo appunto per la guida di ieri, ma non è finita perché oggi continuate a rispondere anche alle domande, c'è la video chat sul Sole 24 Ore. Raccontaci un po' che cosa è emerso da questa super operazione del quotidiano intorno a questo tributo, questo balzello che ci rimane, sì, ancora un po' indigesto, però insomma dobbiamo pagarlo. Buongiorno Deborah, intanto buongiorno infatti anche ai tuoi ascoltatori. Noi abbiamo chiuso ieri alle 6 il forum online con appunto 1500 quesiti, più di 1500, che è veramente tanto e dà il polso di quante incertezze ci siano ancora tra i cittadini, tra i proprietari di immobili sull'IMU. Però l'operazione, diciamo che l'operazione chiarezza continua, perché abbiamo oggi pomeriggio alle 14.30 sul sito del Sole 24 Ore, www.ilsole24ore.com, una video chat in cui ci saremo io, ci sarà il collega Gianni Trovati e esperti del Sole e dell'ANCI IFEL, quindi diciamo del fronte comuni, che sono comunque coinvolti direttamente. Non quelli che, come dire, vogliono percorrere la strada della disobbedienza fiscale, in sostanza. No, diciamo di no, ma credo che alla fine non la percorrerà nessuno quella strada a livello comunale, perché penso verrà il buon senso. E quindi diciamo intanto video chat oggi alle 14.30 e poi una prima selezione di risposte è già stata pubblicata sul giornale di oggi, altre ci saranno anche sul giornale di domani e poi possiamo già anticipare che con il Sole di lunedì della prossima settimana ci sarà un inserto che raccoglierà appunto molte risposte, insomma adesso vedremo quante riusciremo a inserirne, ma saranno alcune centinaia. Tra l'altro c'è anche una cosa da dire, perché nella migliore tradizione italiana, dopo il decreto legge, dopo la conversione del decreto legge e l'altro decreto con i correttivi, sta per arrivare la circolare. Circolare il governo si è reso conto di essere stato nella stesura della legge un po' superficiale su alcuni aspetti, per cui arrivano inevitabilmente le precisazioni. Arrivano le precisazioni, per adesso si tratta ancora di una bozza che sarà probabilmente limata, corretta e pubblicata nei prossimi giorni. La bozza sono una cinquantina di pagine, quindi questo fa capire che comunque c'era bisogno di mettere un po' d'ordine, e quindi il lavoro nostro sarà quello anche di cercare di andare poi a rileggere le risposte alla luce di quello che ci dice la circolare. Allora, l'altro ospite di questa mattina, visto che questo binomio era stato soddisfacente, assolutamente soddisfacente la scorsa settimana, oggi lo abbiamo riproposto anche perché li avete direttamente coinvolti anche nel forum di ieri e in quello delle ultime ore, Gianni Marchetti, direttore della formazione di AGEFIS, l'associazione dei geometri fiscalisti. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Grazie per averci ridato la sua disponibilità. Naturalmente stanno già ricominciando ad arrivare tante domande, senza aver neanche ancora lanciato il numero verde, ma lo conoscete bene, l'800240024, oppure ci potete scrivere al 349-238-6666, salvadanaio@radio24.it, andate su Facebook, salvadanaio-radio24. Adesso fissiamo alcuni punti nella nostra scheda e poi ritorniamo, anche prendendo a spunto tutte le domande che ci sono arrivate da parte vostra e alle quali non siamo riusciti ancora a rispondere, anche se Gianni Marchetti, devo riconoscerlo, se ne è imbarcato di tantissime, però qualcuna ne abbiamo tenuta fuori, la utilizzeremo questa mattina appunto proprio per continuare ad approfondire i dubbi più ricorrenti sulla questione del pagamento dell'IMU. Intanto, come ripeto, fissiamo almeno alcuni punti con la nostra scheda. Cara IMU, quanto ci costi? Se lo stanno chiedendo i contribuenti italiani, mentre le settimane passano e si avvicina il 18 giugno, ultima scadenza per versare il primo acconto dell'imposta municipale. La nuova tassa costerà prima di tutto in termini di euro da versare, ma molti la stanno già pagando, senza dubbio, anche con una buona dose di preoccupazioni e grattacapi, dubbi sulle modalità di calcolo e in merito alla categoria corretta nella quale far rientrare la propria abitazione. Le regole di per sé non sono difficili da ricordare e i conti, calcolatrice alla mano, piuttosto veloci. Entro il 18 giugno si paga la prima rata in base alle aliquote standard, 0,4% per l'abitazione principale e 0,76% per le seconde case. Per scoprire la cifra si parte dalla rendita catastale, che si trova nell'atto d'acquisto della casa, la si rivaluta del 5% e si moltiplica il risultato per 160. E a quel punto si può applicare l'aliquota. Facile a dirsi, difficile a farsi, visto che le zone d'ombra continuano ad essere parecchie. Molti i dubbi che circolano, ad esempio, intorno alla definizione di nucleo familiare. Cosa succede, in sostanza, se una famiglia possiede due abitazioni e in ciascuna è residente uno dei coniugi? E se vi risiede un figlio maggiorenne? E se i coniugi sono separati? Quando considerare le abitazioni principali e quando seconde case? Non si può poi dimenticare che le stesse aliquote non sono ancora definitive. Prima del saldo, previsto in due rate, ma che per la prima casa può avvenire anche in tre, i comuni prima e il governo poi potrebbero ancora modificarle. La vicenda, insomma, è ancora intricata e una magra consolazione potrebbe arrivare, se non altro, dalla promessa da parte del governo di non essere troppo severo con le sanzioni e le multe per chi sbaglierà i conti. Cristiano, tra l'altro, in questo provvedimento omnibus, come lo definite sul Sole 24 Ore questa mattina, a cui il Ministero dell'Economia sta lavorando con tutti i chiarimenti sull'IMU, c'è anche la questione delle sanzioni per chi sbaglia il calcolo? No, quella non c'è, ma attenzione, quella è, bisogna capire, insomma, che si tratta comunque di una dichiarazione politica un po' difficile da applicare, se posso dirti, perché come si fa a non sanzionare chi sbaglia? E se io mi sbaglio e quest'anno non pago nulla, cosa faccio? Rinvio il pagamento all'anno prossimo. Comunque bisognerebbe... diciamo che teoricamente con il saldo di dicembre tutti dovrebbero essere a riparo da qualsiasi tipo di errore possibile. Certo, certo. Diciamo che la cosa importante è mettere nelle condizioni le persone di non sbagliare. Ecco. E quindi dare delle linee chiare. Se posso, una cosa la possiamo già dire subito. Nella tua scheda si faceva riferimento al caso dei coniugi che abitano in case diverse. Allora, la legge, così come è stata corretta adesso dal Parlamento convertendo il decreto fiscale, dice che se queste abitazioni si trovano nello stesso comune e i due coniugi hanno residenza e dimora nelle due abitazioni diverse, allora non potranno avere su entrambe il trattamento abitazione principale. Quindi dovranno scegliere una delle due sulla quale far scattare l'aliquota ridotta e la detrazione di 200 euro. Ma se invece si tratta di abitazioni situate in comuni diversi, allora in questo caso la legge non lo diceva, la circolare adotta l'interpretazione più favorevole al contribuente, perché in questo caso dice, insomma, ci sono effettive necessità di trasferire la residenza anagrafica e quindi si può avere su entrambe il trattamento abitazione principale. Attenzione, quindi però, con anche le detrazioni individualmente? Con anche la detrazione. Quindi se si hanno, vabbè, se si ha un figlio chiaramente se ne incarica uno, non è che beh, possono entrambi. Il figlio dovrà comunque abitare in una delle due case e quindi seguirà la casa in cui convive il ragazzo. Dicevo, attenzione però, questa possibilità, quella di prendere la residenza in una seconda casa, magari nei comuni turistici, era stata una delle classiche forme di elusione dell'ICI. Ecco, non è che la norma adesso consente di fare questo, richiede comunque la residenza e la dimora effettiva in comuni diversi, quindi sarà semmai il comune in cui un soggetto abbia la residenza senza avere il resto della sua famiglia a dover verificare che lì ci sia effettivamente anche la dimora e quindi che ci sia un'effettiva presenza, un effettivo sviluppo, diciamo, di, come dice il codice civile, dei suoi interessi e così via. Però diciamo, occorre che il soggetto ci sia fisicamente. Certo. Quell'espediente lì, non dell'avere la residenza nella seconda casa, non era e non è giustificato, ecco. Gianni Marchetti, tra l'altro la questione della coincidenza tra residenza ed effettiva dimora, la questione della interpretazione più corretta possibile secondo la normativa del nucleo familiare, sono tutti temi che anche lei aveva sollevato la settimana scorsa, naturalmente sulla base delle sollecitazioni che arrivano alle persone che vi chiedono consulenza. State sopravvivendo all'IMU, come sta andando? Sì, abbiamo una sorta di effetto rigetto, direi, solo che siamo ancora distanti dal momento clou che poi è il pagamento dell'importo. Certo, ma in ogni caso questo provvedimento che sta arrivando, che Cristiano Dall'Osta appunto ci stava anticipando, in qualche maniera ha contribuito a chiarire le idee rispetto ad una settimana fa, almeno su certi aspetti? Ma sì, io mi auguro che poi la circolare faccia chiarezza di quegli aspetti che sono ancora, che lasciano ancora aperti molti dubbi. Il principale è sicuramente quello ricordato, che già io nella precedente trasmissione avevo sottolineato, che era il concetto di nucleo familiare. L'altro elemento che come Agefis avevamo sottolineato, che però non so se avrà risposta nella circolare, è il problema legato al concetto di pertinenza, nel senso laddove la pertinenza, la cucina sia stata accatastata insieme all'abitazione principale, la norma prevede che possa essere considerata una sola per categoria C2, C6, C7, quindi si possono porre dei problemi soprattutto al contribuente comune, al cittadino comune, di interpretazione di questa norma e soprattutto di calcolo. Ecco, quindi io mi auguro che anche lì possa venire qualcosa, anche se ho dei dubbi. Cristiano? Ecco, diciamo che su questo i dubbi di Marchetti purtroppo sono ben riposti, nel senso che la bozza, che appunto per ora, ricordiamolo, stiamo parlando di un testo non definitivo, però non prende posizione sul tema spinoso delle pertinenze accatastate insieme all'abitazione quindi principale. I garage, i box, che esatto, sono la stessa cosa, le cantine, il solaio. Esatto, in particolare ci dice che se abbiamo due pertinenze della medesima tipologia catastale, di cui una censita con l'abitazione e un'altra censita a parte, allora in questo caso la norma ci dice, come era anche nella logica, che su quella censita a parte pagherò l'aliquota piena, perché ne posso avere soltanto una con l'abitazione. Però non viene previsto il caso in cui le pertinenze accatastate con l'abitazione e inseribili nella medesima tipologia siano due. Facciamo il caso abbastanza comune, una soffitta e una cantina, che entrambe sarebbero in C2. In questo caso c'era il punto di domanda, ci si chiedeva e si diceva: ma cosa faccio? Devo quindi fare lo scorporo della parte di rendita riconducibile a una delle due pertinenze e tassarla ad aliquota piena? La circolare non prende in esame questo caso, e non lo prende in esame perché, questo credo che Marchetti sia molto più qualificato di me per dirlo, perché c'è anche un problema poi di applicazione pratica della norma, perché molti contribuenti potrebbero in perfetta buona fede non accorgersi di questa situazione, perché prendono la visura catastale, esatto, e non fanno caso. E d'altra parte però la sollecitazione che arriva dai comuni è che anche alcuni comuni potrebbero non accorgersi di questa situazione, perché il controllo automatizzato fatto dal comune viene fatto sulla base delle rendite risultanti dalle visure. Allora, Cristiano Dell'Oste in questo momento mi stava aprendo uno scenario del tutto nuovo ed inatteso che vi racconto tra un attimo, cioè chi ristruttura la propria abitazione temporaneamente, appunto non la abita, magari in quei mesi può considerare appunto di non poter pagare l'IMU. Esatto, questa è una cosa su cui possiamo coinvolgere sicuramente Marchetti, perché la norma dice che per gli immobili inagibili o inabitabili c'è un abbattimento della base imponibile del 50%. Alcune delle domande che ci sono arrivate andavano proprio ad approfondire cosa voglia dire inagibile. Per esempio c'era il lettore che aveva la casa, come spesso succede, magari una vecchia casa di campagna con gli impianti ormai non più a norma, senza riscaldamento, diceva ma quella è tecnicamente inagibile? O ancora, chi sta ristrutturando un'abitazione e non ci può abitare perché... Io non avevo il bagno per due mesi, secondo te potevo abitarci? In quei casi, ecco, sentiamo da Marchetti. Marchetti, che cosa dobbiamo fare? Insomma, per chi ha ristrutturato lo scorso anno e per magari quattro mesi non ha abitato la sua casa, la sua dimora, la sua residenza principale, secondo lei adesso ha l'opportunità di abbattere l'imponibile sul quale applicare poi l'aliquota stabilita dal proprio comune? Ma la norma da questo punto di vista prevede che nel corso di un intervento di ristrutturazione edilizia non si assume ai fini del calcolo, riprendo quanto era previsto ai fini ICI, ma è assolutamente ribaltabile ai fini IMU, non si assume ai fini del conteggio dell'imposta la rendita catastale dell'immobile in ristrutturazione, ma bisognerebbe assumere come base imponibile, per determinazione della base imponibile, il valore della fabbricabile sottostante. Quindi, in caso di intervento di ristrutturazione edilizia, che quindi significa che io muto, diciamo che faccio un intervento di cambio la destinazione, le caratteristiche strutturali dell'immobile, viene meno la rendita, la vecchia rendita, e dovrei calcolare l'IMU sulla base del valore dell'area edificabile sottostante. Per quanto riguarda i fabbricati cosiddetti inagibili, inabitabili, bisogna verificare se rispondono alle caratteristiche stabilite attraverso il regolamento comunale, nel senso che non sono io che ovviamente posso decidere se è inabitabile o inagibile, ma devo verificare se risponde ai criteri stabiliti a livello del regolamento comunale. Ecco, però la questione della ristrutturazione è interessante, perché naturalmente anche la variazione radicale degli spazi abitativi cambia il valore appunto della rendita catastale, immagino, quindi va ricalcolata. Seconda cosa, credo anche che bisogna che qualcuno certifichi da quando si è usciti da quell'abitazione, da in che momento ci si è rientrati, quindi ci deve essere anche appunto un documento che attesti quanto tempo il legittimo proprietario è rimasto fuori, per cui si aprono, per la verità, molte più confusioni. Forse conviene far rimanere tutto come prima, cioè a meno che chiaramente poi la destinazione d'uso dell'abitazione sia cambiato radicalmente, questa è una cosa, ma che dice Marchetti? Diciamo che i momenti sono innanzitutto quando inizio il lavoro di ristrutturazione, devo fare una comunicazione, quindi devo fare esatto. E poi a termine nel momento in cui ho ultimato i lavori, devo fare una comunicazione di ultimazione dei lavori. Quindi la norma dice che il fabbricato ritorna ad essere abitabile, agibile, nel momento in cui effettuo questa comunicazione, per cui io dico sostanzialmente che ho finito i lavori e il fabbricato ha terminato il suo intervento e ritorna a essere abitabile. Diciamo che le questioni più complicate le abbiamo tirate fuori, le ristrutturazioni e le pertinenze, che peraltro non abbiamo ancora esaurito, però ci sono molti ascoltatori che ci chiedono ancora un po' l'ABC del calcolo di quanto bisogna versare, e direi che cominciamo a sentire anche loro, poi magari ci ritorniamo su questi aspetti estremi. Tra l'altro Fabrizio ci scrive: io ho una casa, anche questo è un caso molto diffuso, e Fabrizio ancora non ha chiaro che il suo destino è quello peggiore possibile, se possiamo utilizzare appunto questo termine, perché lui ci racconta che ha una casa, per motivi di lavoro però è residente in un'altra casa dove è in affitto, viene comunque considerata prima casa e abitazione principale. Fabrizio, no, purtroppo per la sua prima proprietà paga l'aliquota come se fosse una seconda. Esatto, è così, perché il requisito per avere l'agevolazione legata all'abitazione principale è avere in quell'abitazione la residenza e la dimora. Nel momento in cui io vado a risiedere da un'altra parte, anche se quella è l'unica proprietà che io ho, di fatto è tassata come seconda casa. Patrizia da Roma, buongiorno, apriamo la parentesi delle esenzioni, buongiorno. Buongiorno, sì, era per la prima casa, per l'esenzione prima con l'ICI non pagavo per via del reddito, prima casa e figli minori di 26 anni. E volevo sapere appunto se adesso c'è ancora oppure è stata tolta. E poi come posso calcolarla? Se devo per forza andare da un commercialista? No, no, no, no, non credo che sia. Cioè, allora, l'ho fatto... sentita nella scheda. Non abbiamo proprio suggerito, sì, diciamo che così, enfatizzando un po' le difficoltà e il ginepraio che la norma ha creato, abbiamo detto che per casi estremi magari bisogna farsi fare una consulenza, forse se il caso è così semplice. Cristiano, abbiamo un simulatore sul sito del Sole? Allora, sul sito del Sole c'è un simulatore, ci si può collegare, si può vedere quanto si deve calcolare, quanto si deve pagare, chiedo scusa, per l'imposta nel corso dell'anno, e poi si va a decidere, trattandosi di prima casa, se dividere per due o per tre, perché c'è l'opzione di pagare in due o esatto. In tre rate. No, quello che chiedeva la signora in realtà è una domanda importante, perché sull'abitazione principale si paga lo 0,4% di imposta, e questo è un dato di fatto. E l'aliquota ordinaria, a meno che il Comune Roma, che cosa farà? Secondo te? Al momento non te lo so dire, bisogna vedere come si orienteranno, diciamo che un po' presto. Per esempio Milano sembra più orientato verso lo 0,5%, ma è da vedere, ecco. Diciamo, in aggiunta a questa aliquota c'è poi una detrazione di 200 euro che viene maggiorata di 50 euro per ogni figlio di età fino a 26 anni. Può capitare che, applicando entrambi la detrazione e maggiorandola eventualmente per i figli, si vada a zero. Quindi non è un'esenzione di diritto, è un'esenzione di fatto. È però un'esenzione che, come ha ricordato nei giorni scorsi il sottosegretario all'economia Ceriani, dovrebbe riguardare, da calcoli appunto fatti dal ministero, circa il 30% delle prime case. Quindi questo è un po' il... Non sono poche. Sono quelle con una rendita catastale particolarmente bassa, o quelle dove ci sono due o tre figli che quindi consentono di andare ad abbattere l'imposta. Abbiamo, Cristiano, 45 secondi prima della prossima pausa. Ce la facciamo a fare la formuletta magica per spiegare come si può calcolare in una condizione di massima semplicità, a patto che naturalmente uno abbia una condizione assolutamente ordinaria di proprietà, certo, di una prima abitazione. Partiamo dalla rendita catastale, riprendiamoci il rogito con la quale abbiamo comprata, certo, questa casa, e dalla rendita andiamo a moltiplicare che cosa? Allora, prendiamo la rendita catastale, la moltiplichiamo per 1,05, che è la vecchia rivalutazione Prodi. Il risultato lo moltiplichiamo per 160 e quello che otteniamo è il valore catastale. A questo punto, su questo valore catastale, andiamo ad applicare l'aliquota. Quindi, prima casa 0,4%, prendiamo il valore catastale, lo dividiamo per 100, lo moltiplichiamo per 0,4. Da quel totale lì andiamo a sottrarre le detrazioni. Una volta sottratte le detrazioni, abbiamo l'imposta dovuta nel 2012 secondo l'aliquota nazionale. Ora, questa imposta, trattandosi di prima casa, entro il 18 giugno la potremo pagare o a metà, quindi scegliendo le due rate, o soltanto in un terzo, scegliendo la formula di tre rate. Ricordandoci che entro il 30 settembre i comuni stabiliranno l'aliquota definitiva, speriamo, certo, per cui a dicembre poi andremo a conguaglio e la cifra non sarà mai, credo, necessariamente o assolutamente uguale alla prima versata nell'acconto, Cristiano, dubito che possa verificare. Per chi mantiene lo 0,4. Diciamo che sarà uguale soltanto se il comune non varia di nulla l'aliquota standard nazionale. Se il comune la alza o la abbassa, il conguaglio sarà in più o in meno. Allora andiamo adesso a Stefano dalla Val d'Aosta. Stefano, buongiorno. Buongiorno. Ci racconti. Guardi, la domanda è semplice, nel senso, abbiamo preso casa come casa principale, sia io e mia moglie, un'abitazione nello stesso comune abbiamo. Una delle due è stata data in comodato gratuito a mia madre. L'IMU, come lo devo considerare? La questione del comodato d'uso veramente è un'altra strada irta di ostacoli e pericoli, soprattutto. Comunque penso che per lei la risposta non sarà piacevolissima, ma è abbastanza semplice. Andiamo a Marchetti, che ci aiuta. Gianni Marchetti, sì, dei Geometri Fiscalisti. Sì, sì, il signore potrà, il signor Stefano potrà considerare abitazione principale una delle due unità immobiliari, quella in cui vivono e risiedono, vive e risiede lui insieme alla sua famiglia, alla moglie, mentre quella data in comodato d'uso gratuito alla mamma sarà da considerarsi come seconda abitazione. E quindi ci si paga l'aliquota dello 0,7. Non è un diritto reale e quindi non trasferisce l'onere dell'IMU a carico del soggetto che beneficia di questo utilizzo. Concetto che viene chiarito molto bene a pagina 21 del Sole 24 Ore di oggi, in un pezzo che porta la firma ancora del nostro Cristiano e di Gianni Trovati. Un'altra domanda di un altro ascoltatore, vediamo adesso, possiamo accontentare Salvatore da Napoli. Salvatore, buongiorno. Ah, buongiorno, senta, mi sente? Sì, sì, la sentiamo benissimo. La ringrazio per avermi chiamato. Volevo dirle, io ho due mini appartamenti di 30-40 metri quadrati comunicanti, dove attualmente risiedo in entrambi, perché sono comunicanti i due mini appartamenti, e risiedo e dimoro con i miei figli. Io non ho fatto nessuna voltura perché, siccome ho una certa età, vorrei lasciare questi mini appartamenti ai miei due figli. Però noi viviamo in tutte e due, complessivamente la superficie non supera i 100 metri quadrati, sono sullo stesso pianerottolo, allo stesso numero civico, e volevo sapere se io devo considerare uno come prima casa e l'altro come seconda casa, visto che attualmente al catasto risultano censiti separatamente. Benissimo, Salvatore. Però di fatto io li utilizzo entrambi come abitazione principale. Benissimo, Salvatore. Marchetti, come si deve comportare il nostro amico di Napoli? Ma la norma è chiara da questo punto di vista, nel senso che prevede di poter considerare l'abitazione principale soltanto una unica unità immobiliare, quindi deve considerare l'abitazione principale una delle due, essendo uguali credo che sia indifferenza. Certo. La possibilità, il consiglio che possiamo dare come Agefis al contribuente è quello di andare a fare una specifica pratica DOCFAR catastale, una dichiarazione di porzione di unità immobiliare ai fini fiscali, nel senso che unisce fiscalmente il valore delle rendite senza però andare a, mentre le due unità immobiliari rimangono distinte dal punto di vista della catastale. Secondo lei questa operazione gli rende più leggera, come dire, l'operazione finale di versamento, quindi? Sì, perché con questo tipo di intervento la rendita così individuata potrà essere utilizzata fiscalmente, quindi anche ai fini IMU, come abitazione principale, che per tutte e due le abitazioni, perché sarà sostanzialmente la somma delle due rendite. Però i due immobili, i due appartamenti rimangono accatastati distintamente, quindi potrà un domani lasciarli in eredità ai due figli. Allora, ci scrive Michele a Salvadanaio @radio24, ci tenevo particolarmente a rispondere a questa mail perché questo ascoltatore ci dice: io e mia moglie siamo non vedenti, lei è proprietaria al 100% dell'immobile dove entrambi abitiamo e risiediamo appunto insieme. Tempo fa praticamente circolava l'informazione che fra le varie categorie esenti al pagamento dell'imposta erano inclusi anche i soggetti disabili o chi in casa ne accoglieva uno. Sappiamo qualcosa di più rispetto a tutto questo, Cristiano Dell'Oste? Guarda, purtroppo su questo punto non ci sono buone notizie, nel senso che la caratteristica, l'eventuale handicap del proprietario non dà diritto a riduzioni, quindi in questo caso potranno sicuramente pagare sulla loro abitazione principale l'aliquota ridotta e la detrazione, ma non ci sono benefici. L'ipotesi a cui fa riferimento il nostro ascoltatore è legata a un ordine del giorno che era stato votato qualche mese fa dal Parlamento, e che però è rimasto inattuato da parte del governo, quindi di fatto le agevolazioni per i disabili non sono state introdotte, ecco, non ci sono da questo punto di vista, e non ci sono neanche, pensiamo per esempio per i figli disabili che abbiano più di 26 anni, quella è un'ipotesi che non c'entra, diciamo che l'unico requisito per i figli è quello dell'età. Giovanni da Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io abito con mia sorella in un immobile, in due appartamenti separati, tuttavia il fabbricato è indiviso, quindi io posseggo il 25% della mia proprietà, mia moglie l'altro 25%, mio cognato e mia sorella il rispettivo 25-25%, quindi noi paghiamo l'ICI come prima casa, l'IMU come prima casa sul nostro appartamento, mentre paghiamo come seconda casa l'IMU sull'appartamento di mia sorella e di mio cognato. La domanda che io facevo è questa: la detrazione prima casa mi spetta per intero o devo frazionarla? Deve frazionarla, mamma mia ragazzi, cioè, hanno proprio ragione veramente i contribuenti, perché qualche altro io un po' lì mi indispettisco quando magari non ascoltano le regole generali e ognuno si focalizza sulla situazione individuale, e d'altronde come si potrebbe fare diversamente? Giovanni, grazie. Marchetti, ci deve venire sì, in soccorso. Per quanto riguarda le detrazioni, sono riferite all'unità immobiliare, quindi i 200 euro sono da suddividersi proporzionalmente rispetto ai soggetti che utilizzano l'unità immobiliare come abitazione principale. Quindi dipende da qual è la situazione effettiva di questo del signor Giovanni, ecco. Quindi la detrazione del 200 euro è riferita all'unità immobiliare, quindi se l'unità immobiliare è unica andrà ripartita proporzionalmente tra i vari soggetti che la utilizzano come abitazione principale. Cristiano, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, è così, diciamo che sono 200 euro per unità, come diceva Marchetti, quindi se l'unità è unica la detrazione è di 200 euro, se le unità immobiliari sono due, allora a quel punto la detrazione è doppia e sono 200 euro per ogni unità immobiliare. Bisogna capire come è strutturata nel dettaglio quell'abitazione. C'era l'ultima domanda di Roberto da Firenze, non riesco a farlo intervenire. Roberto, la sua domanda la leggo io. Lui dice: l'acconto deve essere versato sulla base di aliquote nazionali, questo 0,4% l'abbiamo già detto, ma se il comune poi delibera diversamente si va a regolarizzare la propria posizione con il conguaglio di dicembre. Cristiano, è perfetto così, ecco, almeno una cosa l'ho capita, ci mancherebbe, non tante ma almeno tre ce le ho in testa. Grazie a Cristiano Dell'Oste, a Gianni Marchetti per il grande lavoro che ha fatto anche per noi in questi giorni. Marchetti, non ha mica terminato, sa quante domande ho da mandarle? È contento? Sì, vabbè. Sono felice. Grazie. Agef, tra l'altro ho messo anche mal'accento sulla vostra organizzazione, che è comunque l'Associazione dei Geometri Fiscalisti. Agefis, potete andarla a trovare su internet. Noi ci ritorniamo sull'IMO sicuramente di nuovo la prossima settimana. Buona giornata a tutti.